Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, Ferry Boat, io sono Ensergante, il traghettatore in viaggio verso l'economia sociale. Cominciamo subito con una manifestazione davvero originale e già tanto importante che si apre domani all'ITIS di Galileo Galilei di Roma. È Rome Cup, la prima manifestazione, l'unica e evidentemente la più importante, sulla robotica. Quest'anno, in questa edizione, si registra peraltro un'importante novità, la firma di un protocollo sull'uso della robotica a fini educativi. Ci spiega che cos'è il direttore generale di ST Microelectronics Italia, Pietro Palella. Il protocollo è un documento interessante, nel senso che è una iniziativa che intende portare la robotica all'interno della scuola come argomento principale di didattica. Robotica è tematica estremamente importante e quindi estremamente utile a promuovere una scuola nuova. E Mondo Digitale ci ha proposto questo protocollo, a cui noi abbiamo aderito con grande entusiasmo. Voi vi siete impegnati sul fronte della robotica come ST Microelectronics? Sì, noi siamo impegnati da un po' di tempo, abbiamo un gruppo internamente qua in Agrate, anche in Catania, in Italia in generale, che si occupa di robotica, e abbiamo già iniziato alcune attività di collaborazione anche con le scuole in passato. Questa nuova iniziativa ci permette di dare più sistematicità all'approccio della robotica nelle scuole. E ST Microelectronics, per chi non la conoscesse, si occupa, è una delle aziende leader nel mondo nel suo campo. Direi di sì, noi siamo ai primi posti della classifica mondiale dei semiconduttori ormai da tempo e siamo presenti in tutti i mercati più importanti del mondo e in tutte le applicazioni più importanti della microelettronica. Ahimè, siete un'eccezione in un paese in cui purtroppo le aziende manifatturiere, anche se nel vostro caso è una parola forse impropria, non sono più tantissime nel nostro paese. In realtà la parola è propria, perché lei faccia conto che quasi il 50% delle persone che lavorano per ST in Italia lavorano nella manifattura e il 30% lavorano nella ricerca, quindi siamo un'azienda estremamente complessa, ben radicata in Italia. Se lei dice che siamo un'eccezione ci dispiace, perché questo secondo noi dovrebbe essere molto più diffuso come modello. A quanto pare però questo si sta resettando un po' il sistema, soprattutto nel settore, come dire, di alta tecnologia come il vostro. La competizione internazionale e la geografia mondiale sta cambiando? Assolutamente sì, il ruolo dell'Estremo Oriente è sempre più importante, anche se noi pensiamo che in questo modello che sta cambiando il ruolo dell'Europa e dell'Italia in particolare debba essere ancora molto importante, nel senso che l'innovazione nasce da qui e anche la manifattura innovativa ha senso farla qui, quindi questo circolo virtuoso di innovazione e manifattura innovativa è un punto di forza della nostra presenza europea e italiana in particolare. Un'ultima battuta su Rome Cup, mi ha un po' sorpreso notare che c'è un'azienda, un'industria, un settore robotico in Italia, non l'avrei detto. Dal punto di vista applicativo c'è sempre stato, l'automazione industriale e la robotica sono sicuramente molto, molto brillanti, fatti di realtà medio-piccola ma sicuramente molto brillanti. E la nostra proposizione a questo mercato è interessante ed innovativa. Un tema molto importante e particolare è che questo ci permette di stabilire un nuovo rapporto con le scuole e per noi il mondo dell'istruzione è fondamentale perché, come dicevo prima, avendo il 30% di persone che lavorano in ricerca e sviluppo, poter avere accesso a nuove persone qualificate che escono dal mondo della scuola è condizione fondamentale per continuare. Grazie, buon lavoro direttore. La ringrazio molto dottore. Il 15 marzo, quindi martedì, a Milano un convegno di Assinger alle 14.30 a Palazzo Castiglioni in Corso Venezia. Il tema è l'Information Communication Technology, quindi l'ICT, connessa con la CSR, che è la nostra materia, quindi connubio etica e business. Interessante a poter ascoltare anche una relazione del sociologo Domenico De Masi. E ancora, per concludere, lavoro e cura della famiglia, come bilanciare la vita professionale e quella personale. C'è una ricerca promossa dalla Fondazione ICSR che nasce sotto l'egida del Ministero del Lavoro. Questi risultati saranno presentati a Roma mercoledì prossimo in un convegno che si terrà presso l'INAIL. Scriveteci a ferribotti@radio24.it per segnalare le vostre notizie e le vostre iniziative. Grazie ad Anita Panizia, redazione, e a Peter Bescapè in regia. A risentirci.